Tempo di sport con Carlo Genta. Ma secondo voi l'Inter ha bisogno di un allenatore nuovo? 800240024, Luca Rinaldi in redazione, Mauro De Angeli in regia. Sì, perché forse l'Inter sta cambiando allenatore un'altra volta, o forse no, forse è qualcosa di diverso. Forse sta prendendo un giocatore, magari Sanchez, che vogliono tutti, e desidera altre informazioni da uno che lo ha allenato. Però comunque sia finalmente qualcosa di divertente da scoprire quest'estate. Moratti ha già smentito, come da facilissimo pronostico, quote stracciate, non so se si può dire, per questa smentita di Moratti arrivata alle 12:23. Non c'è stata alcuna telefonata con Bielsa, chiariamo le cose. Abbiamo un allenatore che si chiama Leonardo ed è bravo, dice presidente dell'Inter. Fatto sta che, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con dettagli molto precisi, Moratti ha telefonato a Bielsa, Leonardo tornerebbe a fare il dirigente, magari non all'Inter, perché oggi si sono scatenati di qua e di là, c'è cioè chi lo vede addirittura al Paris Saint-Germain, dove Leonardo è anche transitato come giocatore ormai molti anni fa. Però dicevo, qualcosa di interessante da approfondire, e allora non potremmo scegliere interlocutore migliore se non colui che ha scritto queste cose, Alberto Cerruti, penna di punta della Gazzetta dello Sport. Ciao Alberto. Ciao e buongiorno agli ascoltatori di A24. Avevi pronosticato, ma non era difficile, la smentita di Moratti. Beh, era difficile immaginare il contrario, perché in qualsiasi trattativa, in attesa della conclusione, c'è la smentita, per due motivi: se la trattativa salta è facile smentire, se la trattativa va avanti è d'obbligo smentire per timore che la trattativa possa saltare. C'è sempre qualcuno di mezzo, in questo caso Leonardo, per cui la smentita di Moratti è super prevista e super obbligata. Certo, Alberto, noi di sensazioni possiamo parlare, secondo me, a differenza di qualche magistrato, noi di sensazioni possiamo parlare e le tue sono molto indicative. Qual è la tua di sensazione su questa vicenda? L'Inter sta cambiando allenatore o sta pensando di cambiare allenatore? La mia sensazione è che Moratti abbia voluto fare una telefonata per capire qual era la posizione di Bielsa. Io credo, sensazione, come dici tu, che rimarrà Leonardo, però questa telefonata fa capire che qualcosa si sta muovendo, e quindi Moratti, che già aveva pensato a Bielsa prima di esonerare Benitez, questo va sottolineato, ha voluto evidentemente conoscere qual era la posizione di questo allenatore, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo allenatore. Sì. E quindi una telefonata che doveva rimanere segreta non impegnava nessuno dei due. È chiaro che una notizia così scomoda, e per questo diciamo pure clamorosa, può complicare i piani di tutti. Sì. A questo punto bisogna vedere se Moratti è stato convinto dalle parole di Bielsa, se Bielsa è stato convinto dalle parole di Moratti, e quindi non rimane che attendere. Il fatto certo, anche se Moratti comprensibilmente smentisce, è il fatto certo che la telefonata c'è stata. Certo. Oltre non possiamo andare, perché ci spingeremmo nel regno delle ipotesi più assoluto. Certo è che, ma Leonardo non può aver fatto piacere una telefonata di questo tipo. Certo è che, così stando le cose, non si parte con il piede giusto per una nuova stagione, perché se hai un allenatore e ne cerchi un altro, vuol dire che quello che hai in casa non ti convince più di tanto. Sì, questo è vero, però io non escludo, ma siamo sempre a livello di sensazione, che prima di andare in vacanza Leonardo abbia detto a Moratti: guardi presidente, se dopo lei ha un'altra intenzione, se vuole cercare qualcun altro, faccia pure, perché sì, ci sta nel carattere di Leonardo, che è una persona molto per bene, e ci sta anche che Moratti abbia fatto un sondaggio. Non è detto che poi dopo questa telefonata arrivi il Bielsa o un altro, ecco perché questa telefonata non è decisiva. Certamente però questa telefonata fa capire che Moratti sta già pensando a un certo futuro che non sappiamo poi quando si realizzerà. Io sono convinto, ecco, di questo sono convinto, che in ogni caso Leonardo rimarrà all'Inter, non andrà né al Paris Saint-Germain, sì. Sarebbe un ottimo dirigente nell'Inter, potrebbe ricoprire il ruolo che fu di Facchetti, sono convinto che i suoi rapporti con Moratti siano eccellenti. È chiaro che il fatto che sia uscita questa notizia, ma secondo me dispiace più a Moratti che a Leonardo. Ecco. Sì, sì, essere stato ma smascherato. Ci sta nel carattere di Leonardo. Se questa telefonata fosse stata fatta da un altro dirigente di un'altra società, non facciamo nomi, sarei stato convinto che la cosa avrebbe avuto un seguito. Fatta da Moratti, che ama parlare con i personaggi, che dopo comunque ci pensa, ci ripensa, torna indietro. Ecco, fatta da Moratti può avere un valore meno decisivo, sì. Però un valore ce l'ha. Certo, e quanto può incidere su questa telefonata? Quanto possono incidere i rapporti che Leonardo ha, o meglio non ha, con alcuni giocatori importanti? Si dice Snyder, si dice Eto'o, si dice Mike Conn. Secondo me questo incide molto ed è uno dei motivi comprensibili per cui Moratti ha pensato, sottolineo pensato, non deciso, a Bielsa. Perché Bielsa è molto legato agli argentini, in particolare a Zanetti e Samuel, che sono stati i suoi giocatori nella nazionale del 2002, perché Bielsa sa farsi amare dai giocatori, da tutti i giocatori, come Mourinho. E quindi il fatto che ci siano state delle crepe ultimamente nello spogliatoio dell'Inter può avere indotto Moratti a pensare a un personaggio con un fortissimo carisma, ancora più forte di quello di Leonardo, con una fortissima esperienza, con un grande ascendente sui giocatori. In questo senso sarebbe una scelta tutt'altro, sottolineo tutt'altro che sbagliata. Alberto, un'altra cosa, come valuti invece l'ostinato rispetto dell'Inter per fair play finanziario? Sembra che in tutta Europa gli unici vincolati con la bandiera del fair play finanziario in pugno siano proprio quelli, siamo proprio nerazzurri. Nuove regole del gioco, prive peraltro, come faceva notare Mario Sconcerti su Corriere della Sera nei giorni scorsi, prive di un apparato sanzionatorio al momento, dunque poco più che una dichiarazione di intenti che però per l'Inter diventano una questione assoluta in questo momento. Ma io sottolineo due aspetti, innanzitutto la situazione della Saras, l'azienda di famiglia, che induce Moratti a non fare spese folli. Secondo luogo, la prova che l'anno scorso, non spendendo, anzi guadagnando con il cambio Eto'o Ibrahimovic, Moratti ha costruito la più bella e più vincente Inter della sua gestione. E quindi lui giustamente spera di fare una grande squadra, prima di tutto vendendo i giocatori che possono portare denari nelle casse dell'Inter e poi acquistandone altri, sì. Quindi seguendo la strada che si è rivelata vincente a livello economico e tecnico due estati fa. Sì. Sì, anche se ti è andata bene una volta non è detto che vada sempre così di lusso. Sì, questo quello è vero, però l'anno scorso l'Inter ha sbagliato perché non ha acquistato nessuno, anzi ha ceduto Balotelli, certo, senza rimpiazzarlo, poi certo. Gli acquisti li ha fatti nel mese di gennaio, quando era tardi per recuperare il terreno perduto nei confronti del Milan. Certo, l'Inter sta cercando di fare cassa per poi muovere decisamente all'assalto di Sanchez, che però rischia di finire da un'altra parte perché sembra lo voglia davvero tutto il mondo, comprese le due di Manchester, tra l'altro. O magari all'Inter hanno capito, per chiudere Alberto, che vendere Snyder in questo momento, perché Snyder è uno dei partenti, stando anche i non buoni rapporti con Leonardo, eccetera, eccetera, però sembra uno dei partenti, però venderlo adesso non sarebbe un grande affare, sarebbe stato un grande affare venderlo un anno fa. Beh, ci sarebbe voluto un grandissimo coraggio, il coraggio che ha avuto Guardiola nel Barcellona, che ha vinto e ha ceduto grandi giocatori come Eto'o, come Ibrahimovic. Credo che nessuna società italiana, non soltanto l'Inter, abbia questo coraggio, perché la tendenza delle società italiane è quella di confermare tutti quelli che hanno vinto pensando di continuare a vincere con gli stessi giocatori. E secondo me è un errore, perché anzi quando si vince bisogna sempre pensare di rinfrescare la squadra per creare nuovi stimoli, concorrenza. E dopo invece, quando sei costretto a cambiare, diventa tutto più difficile. Assolutamente così, è il peccato originale quello di cui si è macchiata l'Inter di Moratti il giorno della Champions League. Alberto, ti ringrazio, buon lavoro. A te, buon pomeriggio. Un abbraccio, grazie. Di Radio 24. Grazie davvero. Ragazzi, intendiamoci, fate i bravi con i messaggi, poi facciamo tutte le digressioni che volete, dal ciclismo al basket, tutto quanto più tardi, però adesso, dopo essere rimasto piacevolmente colpito da questo vero intrigo estivo che è quello relativo all'Inter, che cambia allenatore, non cambia allenatore, chi lo sa, roba d'estate insomma, roba che già la settimana scorsa eravamo preparati a fare, poi invece è cominciato il teleromanzo vero dell'estate, che è quello che non può che essere quello di Cremona. Calcio e truffa rimane un binomio innegabilmente e irresistibilmente sexy, un binomio e un teleromanzo che hanno una colonna sonora. Puoi puntare di più, oggi non è successo assolutamente nulla, non abbiamo notizie da darvi se non Maroni che dice che il calcio non ha imparato la lezione, non ci sono novità, però sono giorni che con lo sfondo del Palazzo di Giustizia stanno andando in onda ore e ore e ore di diretta, manco si trattasse di corrispondenze di guerra. Ho voglia di parlarne con Antonio Di Pollina, critico di Repubblica, nostro amico. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. Ti piace il teleromanzo dell'estate? O ti piace di più l'Inter che cerca Bielsa? No, è una bella lotta fra le due cose. Vorrei, il teleromanzo dell'estate è irresistibile, dai. Sì. Quello sì, lo subisco un po' perché ci sono un sacco di cose che non mi tornano e poi vediamo, ma non lo so, che devo dire? Allora, che c'è voglia di calcio giocato, ecco, prima o poi. Ma in quest'estate vuota e dura, in quest'estate così vuota, in cui tentano di venderci in tutti i modi la Coppa America, che è roba per nottambuli, sì, di nicchia, per gente in vera crisi di astinenza. Ricordo quando ero giovane dei Bolivia Ecuador alle 3 di notte, svegliandomi, sì, apposta 0-0, cose meravigliose. No, io voglio farti sentire invece, Antonio, cosa ha detto. L'altro giorno chiamo un ascoltatore proprio da Cremona, si chiamava Giancarlo, sì, e sono andato a recuperare per te, solo per te, il suo intervento, che è questo. La chiamo da Cremona e devo dire che la città sta vivendo ormai con un po' di indifferenza, quasi di fastidio, tutta questa situazione. Sì. Questa invasione di mezzi, sì, parabole, antenne e quant'altro. Sì. Credo, così, conoscendo bene la realtà e conoscendo anche il Tribunale di Cremona, che i magistrati sicuramente siano di assoluto valore. Sì. L'unica cosa credo che non essendo abituati a questo tipo di indagine, diciamo, mediatica, la metto così, si sono lasciati un po' prendere la mano. E c'è un'immagine che vi voglio riportare negli occhi per dirvi questo. C'è il giudice, il pubblico ministero, che esce da quel portone molto vecchio del Palazzo di Giustizia di Cremona, c'ha la macchina con i vetri alzati e siccome le telecamere sono assolutamente puntate su di lui, vede bene di abbassare il finestrino e di farsi riprendere. Ora, a molti sarà scritta questa immagine, ma è l'immagine esatta di quello che sta vivendo tutta la procura di Cremona. Sentito, Antonio? Beh, molto divertente. È vera, significativa, e non ho dubbio di crederlo, quindi molto bene, ma è lo stesso delle sensazioni, sì, registrate in questione? Ho la sensazione di sì. Appunto, siamo un po' lì attorno, ora ci vuole un disincanto pazzesco per continuare comunque a mantenere appunto un occhio tranquillo su tutto questo, perché nel momento in cui vengono fuori le sensazioni tu hai immediatamente la federazione che a quel punto, guarda caso, si sveglia all'improvviso e dice non ci possono essere le sensazioni. Benissimo, ma vorremmo che la federazione dicesse anche altro, facesse un po' sentire di più, ma mi sembrano abbastanza belli disorientati anche loro. Ma chi, quei fenomeni dell'ufficio inchieste? Ma qualcosa del genere, o comunque tutti quelli preposti. Dopodiché, davvero, chi per esempio giochicchia un po', in maniera proprio a livello di hobby, anche perché sto fatto di poter giocare da internet è francamente diabolico, e quindi allarga di parecchio il raggio, è da tempo che qualche dubbio ce l'ha, vedendo le quote, vedendo le possibilità che ci sono, vedendo è tutto. No, poi bisogna passare però dal dubbio ragionevolissimo e dalle sensazioni altrettanto legittime, magari non esternate in questa maniera, alle prove, e mi sembra che il passo sia abbastanza lungo da fare. Il passo è lunghissimo, e soprattutto l'ambito bisognerebbe chiarirlo a un certo punto. Nel momento in cui dici Serie A, allora diventa una cosa di un certo tipo. Nel momento in cui vedi Cremonese Spezia e quello spinge l'arbitro, allora dici vabbè, sopravviverò anche senza Cremonese Spezia, anche se a Spezia la possono pensare molto diversamente. Non so, io dico, io vorrei la Superlega europea e che non se ne parli più. Ma sai che un po' anch'io, almeno vediamo 10 volte Inter Manchester United piuttosto che guarda che se l'allarghi Barcellona Real Madrid, neanche 10 volte, potrebbe, meno, ma meno, sì, sì. No, ma potrebbe avere un senso, sai, a quest'ora. Ci piace, a tutti noi piace un certo calcio, però non sappiamo se è ancora proponibile tra fair play finanziario e quant'altro. Piuttosto, Antonio, volevo farti sentire un'altra cosa, perché in questo teleromanzo dell'estate abbiamo, ovviamente, come in ogni saga che si rispetti, delle nuove star. Ad esempio la signora Paoloni, che mai si sarebbe sognata in vita sua di finire al TG1 delle 20. Marco è un ragazzo semplice, un ragazzo come tutti i ragazzi della sua età, di 27 anni. In questo caso, non lo so, sprovveduto. Non lo vedo la mente criminale che è stata descritta. Sicuramente ha sbagliato delle scelte, ne sta pagando le conseguenze. Allora, la signora Paoloni, come dove la mettiamo in questa hit parade? A parte questo tuo riferimento al fatto che se si capita al TG1 vuol dire che si è importati, cosa che dopo di tempo, come dire, è un po' passato di moda. Dice che è un po' un luogo comune? Sì, un po' sì. Mi sembra che l'ambito sia quello della TV di quel tipo, cioè dove vedi i protagonisti nelle trasmissioni del pomeriggio, ragazzoni e ragazzone tutti convinti di essere arrivati chissà dove, o di essere importanti per quello, e che poi a un occhio, ripeto, minimamente disincantato, appaiono davvero degli sprovveduti, come dice la signora, e il termine potrebbe essere ovviamente molto più pesante, ma siamo ancora qui che ci gingilliamo queste cose e non abbiamo ancora deciso se al calcio continueremo a crederci e tutto. Il discrimine, secondo me, è anche capire quanto questa questione può inficiare la fiducia o il buon umore di tutti, perché è una cosa importante rispetto al gioco del pallone, rispetto per esempio a quello che è successo in altri sport con la questione doping, ecco. Certo. È una similitudine molto viva, secondo me. Però sono, ripeto Antonio, sono quelle cose estremamente sexy anche per il grande pubblico, cioè chi mi scrive adesso cerchiamo di non trasformare pure Paoloni e la moglie in un reality, sono già trasformati da soli in un reality, ho l'impressione. Voglio chiudere con te invece sull'altro discorso, quello della Coppa America, perché l'estate televisivo sportiva non proporrà un granché, come in tutti gli anni dispari. È un anno brutto da quel punto di vista. Ora Sky sta pompando la Coppa America, interessante, dicevo, abbiamo tutti dei ricordi legati a queste partite lontane, figurati io che tifo Argentina come nazionale di riferimento. Ma diciamoci la verità, è una nicchia per insonni, per gente in crisi d'astinenza. D'altra parte però è vero che l'abbonamento si paga anche d'estate a prezzo pieno. L'abbonamento si paga anche d'estate, Sky tenta di ricordarsene con una frequenza secondo me un po' superiore rispetto al passato. Vogliamo anche dire che nei weekend certe partite importanti vengono giocate in orari umani e quindi sono alla sera, che la finale in genere mi pare che sia la domenica sera, forse intorno alle 22, almeno in passato è stato in quel modo. Vogliamo dire che qualcosina qua e là c'è, poi appunto per le perversioni tipo Bolivia e Ecuador ognuno si sceglie le proprie e vedrà di resistere. Ma visto che hai citato Sky, non so, faccio io una domanda a te: quanto hai creduto all'amministratore Mockridge che ha detto guardate che noi non diamo più una lira se continua così? Poco. Tu? Io sto cercando di capirlo, ma faccio davvero fatica, perché qui sembra che ci sia da una parte un benefattore che può tutto, e dall'altra parte un come si dice, un benefatto, no, sì, un beneficato, un mendicante. Così che sta in piedi solo perché esiste l'altro. Invece i due, cioè le società di calcio di grande livello e la Pay TV, sono abbracciate l'una gli uni con gli altri in un abbraccio, appunto, fondamentale. Se uno dei due molla, non è che certo, l'altro resta in piedi con grande gioia, vanno a fondo tutte e due. Quindi, come dire, stiamo anche un po' guardinghi e un po' disincantati anche su questo. Sì, ma anche perché sto cominciando a capire che nessuno ti regala niente, quindi... Peraltro. E che ogni cosa ha un valore di mercato. Di conseguenza, a Mockridge io da qui credo pochino. Antonio, io ti ringrazio, come sempre. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao. Ad Antonio Di Pollina. Dunque, abbiamo un paio di ascoltatori già subito, dei molti che sono prenotati. Mauro da Biella, buongiorno. Buongiorno, io telefono per questo scandalo che è uscito. Sì. Non è che tutto questo sia più gonfiato di quello che è? Che gli attori, come ha detto lei 5 minuti fa, sembra un reality, ma sono quegli attori che entrano al Grande Fratello e che alla fine non hanno, sporcano solo il nome del calcio, ma non hanno questo peso che vogliamo, che gli stiamo dando. Guardi, gonfiato. Sia noi che ci piace il calcio, che i giornalisti e le TV. Gonfiato, sì, come un tacchino. Le ragioni anche facilmente comprensibili, le dicevo prima, essenzialmente è una cosa che interessa, che alletta, che intriga, è estremamente sexy il binomio calcio-truffa, no? Quindi capisco bene come un po' tutti ci siamo buttati su questa vicenda. Io personalmente, anche divertendomi e senza prenderla troppo sul serio, perché fino adesso io continuo a vedere pochissimo, dunque vale la pena, di secondo me, di rimanere su questi toni. La vicenda è certamente gonfiata, la rispondenza tra il rumore che si è fatto, anche le diffamazioni che sono state fatte, e la sostanza non esiste, no? Per il momento io vedo nulla o pochissimo. Poi adesso si dice che si entrerà in una fase in cui ci saranno meno fughe di notizie, meno chiacchiere, in cui l'indagine si farà seria, e allora stiamo lì tutti alla finestra ad aspettare. Dunque, cari amici ascoltatori, riprendiamo, sperando di non aver perso il filo dopo questa lunghissima pausa. Marina da Milano che scrive: ma è la signora Paoloni che è diventata importante ed è così assurda al Digitour, primo TG d'Italia, oppure è sempre la stessa signora Paoloni ed è il TG1 che va a rotoli? Domanda legittima quella di Marina, qui però non, alla quale non ho personalmente una risposta. Leonardo, provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta, buongiorno, salve. Salve. Non, tifoso interista, e niente, volevo intervenire per il titolo sulla Gazzetta, che ho letto anche io stamattina, ho visto che prima lì ho sentito che c'era il signor... Le dico subito, tra un attimo andiamo anche in Argentina per arrivare alla fonte di questa notizia. Se potevo, cioè, avrei voluto domandargli, ma la fonte, anche perché escono di queste telefonate. La settimana scorsa c'è stata la telefonata di Leonardo o Mourinho per lo scambio Maicon Kakà, che a me mi sembra una cosa che non sta in cielo né in terra. Adesso, oggi stamattina, sentiamo che Moratti addirittura di persona chiama lui e Bielsa dopo aver speso tante parole su Leonardo. A me mi sembra Moratti una persona seria e corretta. Guardi, però Leonardo, sulla serietà e correttezza anche di chi ha scritto queste cose, io metto la mano sul fuoco. Quanto alle fonti, sa, sono coperte da segreto professionale, dunque ognuno ha le sue e se le tiene, giustamente. No. Ma lei cosa ne pensa? Vede Leonardo al capolinea? Suo omonimo Leonardo al capolinea? No, io penso di no, che Leonardo quest'anno, che almeno per quest'anno, rimarrà ancora all'Inter. Farà anche un buon campionato, sperando anche di vincere, però non credo proprio che la società intenda cambiare Leonardo, cioè, non ci sono i motivi, non ci sono i presupposti, e sono rimasto abbastanza sorpreso da queste due ultime telefonate, per quanto ne sappiamo noi, naturalmente, perché non conosciamo tutto, no? Ad esempio i non buoni rapporti di Leonardo con alcuni big di quello spogliatoio sono un motivo che può essere... può essere sufficiente, magari, per cambiare allenatore. Poi così bene di lui che mi sembra alquanto strano, poi ci può anche stare che qualcuno non sia contento. Ma qualcuno di importante che pare non sia esattamente amico di Leonardo. I nomi li conosciamo, anche questi non sono un grande segreto. Tra l'altro, tutti partenti, salvo l'intoccabile Eto'o. Grazie, Leonardo. Lorenzo, Brescia, buongiorno. Abbassi, mamma mia. Buongiorno, sì, mi sente? Adesso sì, prima no. Sì, scusa. Come al solito stavo dicendo prima la sua segretaria che come al solito in Italia scopriamo sempre l'acqua calda. Io mi chiedo da Paolo Rossi in poi, cioè i controlli, eccetera. Solo questo volevo dire, grazie. Solo questo, sì. Tutto lì, i controlli. No, l'acqua calda la scopriamo quando ci infiliamo le mani dentro, no? O quando ce la tirano addosso. Poi io il primo giorno ho detto sono tutto tranne che sorpreso di leggere queste notizie, di leggere dell'apertura di queste inchieste, eccetera. Quanto ai controlli, siamo sempre lì, bisogna chiedere a quei fenomeni dell'ufficio indagini. I controlli, chi deve fare questi controlli? Certamente, ma non ho voglia di aprire un discorso lungo che è quello della responsabilità oggettiva della società. In questo caso è plausibile quel mostro giuridico che è la responsabilità oggettiva applicata a questa fattispecie, secondo me non sarebbe poi così stonata, perché una società deve essere all'obbligo di essere al corrente di quanto fanno i suoi dipendenti. Come promesso, la mia fonte in Argentina è Emiliano Guanella. Ciao Emiliano. Ciao Carlo, ciao, buongiorno. La fonte che in realtà su questa notizia, Carlo, d'Argentina, riprende la notizia della Gazzetta, nel senso che di Bielsa si è parlato molto. La Gazzetta fa scuola a Buenos Aires. La Gazzetta fa scuola a Buenos Aires. Esattamente. Di Bielsa si è parlato molto un paio di settimane fa sul possibile accordo di Bielsa con Siviglia, poi sfumato. Bielsa è apparso in pubblico. Ecco, Bielsa innanzitutto inquadriamolo, Carlo, è un personaggio sui generis del calcio, in questo calcio dove tutto è televisivo e tutto è esposto e si sa tutto immediatamente quando succede. Bielsa è una persona schiva che non dà interviste, dà conferenze stampa di malavoglia, non esprime concetti in due minuti, ma mitica rimarrà a Buenos Aires la conferenza stampa che durò più di 4 ore di Bielsa, cioè parla poco ma quando parla molto, però assolutamente una persona più che corretta, che non farebbe mai trapelare nulla che non sia già cosa fatta. Bielsa lo si è visto circa 3 settimane fa, perché il fratello di Bielsa, ex ministro degli esteri argentino, si era candidato nelle primarie di un'elezione al governatore di Santa Fe e Bielsa ovviamente, ragion di famiglia, era andato ad appoggiarlo. Bielsa ovviamente a cui tutti vogliono molto bene, soprattutto sì, a Rosario, la sua città. Rosario è una città in cui sono stato per esempio 2 giorni fa, perché c'era stata la partita della Fondazione Pupi di Zanetti e nessuno, appunto Zanetti, Messi e vari giocatori a Rosario, la città di Bielsa, e nessuno ha parlato di questa possibilità, tantomeno appunto il capitano dell'Inter. Quindi ancora tutto da, questo, ancora Bielsa, tutto da scoprire. Però è un allenatore molto amato dai giocatori, dicevi tu prima. Sì, ed è molto amato dai giocatori anche perché è un allenatore che fa pensare, ecco, un allenatore che spiega e soprattutto che insegna, cose che in un calcio fatto soprattutto di risultati immediati molto spesso si perde. Amatissimo dagli argentini, nonostante quel flop dal calciatore argentino, nonostante quel flop clamoroso del Mondiale 2002, ce lo ricordiamo, l'Argentina super favorita di Crespo, Battistuta e compagnia cantante, che fu eliminata addirittura nella prima fase dei mondiali asiatici. Amatissimo in Cile addirittura gli si voleva dare la nazionalità cilena e disputava popolarità col presidente cileno Sebastián Piñera. Nonostante questo, nell'apice del successo, se così si vuol dire, cioè dopo aver vinto le Olimpiadi con l'Argentina nel 2004, se ne va dalla panchina argentina, dopo aver qualificato il Cile ai mondiali, fatto un ruolo, giocato un mondiale più che soddisfacente per il Cile, che ha aumentato naturalmente il suo livello rispetto alla squadra semi-materasso fra le sudamericane di qualche anno fa, anche lì Bielsa se ne fa. Quindi un allenatore che se ne va quando ha voglia di andarsene al di là dei risultati, sì, che è senza panchina e che probabilmente avrebbe voglia di una nuova sfida, di una grande. Detto questo, fare il ponte e dire sì, è vero, Bielsa all'Inter, ce ne vuole insomma. E ce ne vuole, bisogna scoprire ancora un po' di cose. Tra l'altro c'è anche un contatto tra Bielsa e Athletic Bilbao, si legge sempre sulla Gazzetta. Avremo modo, credo, di parlarne, soprattutto se questa notizia troverà conferme e troverà fondamenti. Piuttosto, Emiliano, di tra poco arriva la Coppa America, prima ne parlavo con Antonio Di Pollina, per noi è una cosa molto lontana e tutto sommato è l'evento calcistico di quest'estate poverissima. Si gioca a Coppa America in Argentina, il clima qual è? Beh, il clima è innanzitutto di grandissima attesa intorno alla nazionale che deve assolutamente vincere. Per l'Argentina non c'è la classica manfrina su fare un buon campionato, fare un buon torneo. L'Argentina deve vincere perché da tantissimo che non vince un mondiale e da tanto anche che non vince una Coppa America, dal 93 addirittura, perché si gioca in casa e perché l'Argentina ormai ruota intorno a quello che è ovviamente il miglior calciatore del mondo. Ciò nonostante, l'Argentina è una squadra, è una nazionale in questo momento in formazione, in transizione, se così si vuol dire. Cioè Battista ha tagliato dei pezzi, a mio avviso, assolutamente innecessari dell'avventura maradoniana, cioè i vari De Micheli, Jonas Gutierrez e così via, e sta dando spazio ai giovani, però lasciando, ha richiamato l'esperienza di Zanetta e Cambiasso. Quindi una nazionale che necessariamente non sarà questa nazionale della Coppa America quella che andrà poi ai mondiali in Brasile, però è una nazionale che è chiamata al successo. D'altro canto, velocissimamente, c'è ovviamente il Brasile che è un d'obbligo favorito, ma ci sono delle nuove, le terze forze sudamericane che a questo punto fanno molto più danno molto più importanza, sì. Come il Cile, l'Uruguay e il Paraguay. Sì, che quelle incoronate dagli ultimi. Sono cresciute abbastanza come Venezuela e l'Ecuador. Quindi, a mio avviso, sarà una Coppa America molto interessante e molto più equilibrata degli anni passati. Soprattutto se l'esito dell'ultimo mondiale che ha incoronato queste squadre troverà conferma appunto nella Coppa America che inizierà il 1° luglio. Teniamoci in contatto, Emiliano, per BS e per altro. A presto. A presto. Dunque, Moreno, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. Io ho sentito che prima ha definito quelli dell'ufficio inchieste dei fenomeni. Mm. E io mi ricordo che le stesse persone nel 2006, capeggiate da Guido Rossi, che sembrava Mosè all'epoca, sì, praticamente dispensavano titoli dappertutto. Cioè, sì. La Gazzetta dello Sport sembrava che era arrivata direttamente dalla Sinai. E Narducci, il PM che ha seguito il processo, adesso se non erro è passato nella giunta di Napoli. Cioè, sono passati 5 anni, praticamente questi sono diventati fenomeni, ma allora hanno distrutto una squadra e in 11 giorni hanno fatto processo, appello, una cosa che secondo me neanche, non lo so, neanche in America ai tempi del Texas. Quindi? E quindi voglio dire, cioè, se oggi sono fenomeni, 5 anni fa cos'è che erano? Dei geni assoluti, secondo me. Ma a parte il fatto che il mio fenomeni era ampiamente ironico, no? Mi sembra si sia capito, certamente. Anche in questa vicenda l'ufficio indagini, l'ufficio inchieste, questi organi della Federcalcio non hanno fatto una gran figura, perché sappiamo bene come queste segnalazioni fossero già di loro pertinenza. Detto questo, cosa c'entra questo con quell'altro? Cioè, voglio dire, prima... praticamente a monte sono rimasti sempre quelli, il palazzo è lì da 5 anni. Sì. Se non mi ricordo male, forse c'era già anche la prima, e sono 14 mesi che deve dare una risposta e non l'ha ancora fatto. Sì. Figuriamoci se questo deve decidere in 10 giorni per una promozione o una soluzione per prima arrivare alla monetina, secondo me. No, dovrà decidere sulla base delle carte che avrà a disposizione entro il giorno in cui verranno compilati i calendari, e quindi avrà un mesetto di tempo o poco più, insomma, dovrà dare i suoi verdetti. Allo stato dell'arte non mi sembra ci siano grandi fatti, mentre quella del 2006, l'ho detto 1000 volte e mi sono quasi stufato di dirlo, è un altro film, è un'altra storia. Poi se ognuno ha le sue rivincite da prendersi, se le prenda pure, però francamente troverete anche voi un po' noioso. Poi rimaniamo al peccato originale, che in fondo è, ma qui si apre proprio un altro fronte sterminato, è di quello scudetto che Mourinho definì lo scudetto della segreteria, che a mio parere non doveva essere assegnato, ma anche questa è una mia sensazione, no, non è una mia sensazione, è una mia convinzione, non doveva essere assegnato, perché se quel campionato era nullo e non c'era un vincitore come quello precedente. Però qui apriamo poi un filone sconfinato che non ho nessuna voglia, ma neanche il tempo oggi di andare ad approfondire. Voglio invece andare ad approfondire un po' di storia americana con Simone Sandri. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Sei sempre a Miami, no? Sono a Miami, sto per ripartire per New York oggi. Dopo il funerale? Parti dopo il funerale? Due settimane. Come? Parti dopo il funerale? Sì, il funerale celebra, è un funerale solo a Miami, perché il resto dell'America sta festeggiando, quindi basta uscire da pochi chilometri fuori Miami, neanche dalla Florida, e festeggiano praticamente tutti, perché Miami, credo che nella storia dello sport americano non ho mai visto una squadra più odiata, e lo dico tra virgolette ovviamente in senso sportivo, sì. Ma l'odio è proprio la parola giusta di questi Miami Heat. Ma se la sono cercata non avevano che una chance i Miami Heat di LeBron James, cioè la vittoria non è arrivata, e dunque adesso ci sono le pernacchie di tutti gli statunitensi, salvo anche quelli di Miami, però immagino. Tra l'altro il governatore dell'Ohio che accusa duramente LeBron James, adesso tutti passano alla cassa, caro Simone. Sì, sono un po' quelle rivincite che lasciano il tempo che trovano, soprattutto per quanto riguarda Cleveland e Ohio, perché Cleveland è una la squadra, ovviamente è un po' la fidanzata abbandonata, che è ovvio che in una situazione così cerca la rivincita. I problemi di Cleveland però sono altri, e una ricostruzione che sarà complessa a prescindere da LeBron James. Certo che hai detto benissimo, si parla spesso di LeBron James nel mirino, ma se è sicuramente cercate, non ultimo le dichiarazioni post gara 6, quando accusava tra virgolette l'uomo comune di avere comunque i soliti problemi anche dopo aver buffato LeBron James. E la cosa che credo che abbia soddisfatto tutti i cosiddetti Miami haters, cioè quelli che odiavano Miami, che come ripeto la stragrande maggioranza dei tifosi NBA americani, è proprio il fatto che LeBron James ha giocato in maniera veramente incredibile le finali, in maniera incredibile dico dal punto di vista negativo, perché si è nascosto nell'ultimo quarto, ha giocato con paura mentre un giocatore come Dirk Nowitzki, spesso criticato secondo me anche molto ingiustamente, è stato straordinario nei momenti decisivi. LeBron James è veramente sparito, e questo è sicuramente un qualcosa che dovrà migliorare, perché sennò seguire questa finale lo perseguiterà per diversi anni, finché non vince un titolo. Guarda, io se vogliamo spezzare una lancia, dire una cosa realistica anche su LeBron James, è che gioca a questo punto con un gorillone gigante sulle spalle, perché la pressione che ha lui dopo quella scelta, e a maggior ragione dopo questo fallimento, è quasi insostenibile, io credo. Sono d'accordo, però sì, sono assolutamente d'accordo, però il problema è stato che LeBron James ha commesso una serie di errori molto strani, e il suo entourage è responsabile almeno quanto LeBron James. La cosiddetta decision, quando è andato via da Cleveland con questa fanfara in maniera assolutamente sicuramente con una grandissima mancanza di classe, ma poi il fatto di essere arrivato a Miami, una squadra che era nuova con tre giocatori che si dovevano conoscere, e la prima cosa che ha detto è stata: noi vinceremo 5, 6 o 7 titoli consecutivi. Per cui il problema di LeBron James, credo le accuse principali sono questa arroganza che viene da un talento straordinario, ma anche da un giocatore che è spesso paragonato ai grandissimi della storia come Kobe Bryant o addirittura come Michael Jordan, ma un giocatore che fino a questo punto non ha ancora vinto nulla, per cui è sicuramente un qualcosa che dobbiamo considerare. LeBron James è un atleta e un cestista assolutamente straordinario, però finché non vince il suo primo titolo non potrà certo essere è sicuro. Messo nella discussione con i grandi del e poi si contano gli anelli, gli americani non guardano solo le statistiche, guardano anche i titoli. Nel caso della pallacanestro, gli anelli che hai alle dita. Simone, per chiudere, sei i nostri ascoltatori lo sanno, uno dei più grandi fan del globo del Novara. Quante lacrime hai versato di gioia? È stato un qualcosa di straordinario. L'unico problema è stato che con le finali NBA non ho potuto essere al Piola. L'anno scorso per la promozione ero lì ed è stata un'esperienza che unica, e sicuramente non avrei mai immaginato di poter addirittura superare quell'emozione. È stata una cosa veramente, quando si dice indescrivibile, è proprio indescrivibile, ma questa è stata una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario. Una squadra praticamente con la stessa ossatura della Lega Pro, con un paio di innesti e con una serie di giocatori che hanno contribuito. Se pensiamo che nei playoff hanno giocato, nelle quattro partite del playoff hanno giocato 22 giocatori, praticamente due squadre contribuite, sì, sì. Tutti possono sentirla loro, questa promozione è stata veramente qualcosa di incredibile. Altro che LeBron James. Grazie Simone, un abbraccio, a prestissimo. Grazie. grazie a te Carlo. Grazie a Simone Sandri. Vincenzo da Roma, 30 secondi, faccio giusto in tempo a salutarlo. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grande tifoso di Cassano, volevo chiedere se ci fossero dei rumors su una ricollocazione di Cassano in un'altra squadra che gli permetta di giocare con maggiore continuità. Rumors ce ne sono tanti. La forza di Cassano quest'anno si è dimostrata dal momento in cui la Sampdoria dal circuito della Champions è andata in B e anche nel contributo che ha dato al Milan per la vittoria. No, Vincenzo, lei parla da tifoso, di rumor su Cassano cioè, lo sa meglio di me, ce ne sono tantissimi e non si sono ancora spenti. E peraltro io non sono nemmeno convinto che l'anno prossimo giocherà ancora nel Milan, al momento, anche se tutto porta a pensare questo. Quanto abbia dato Cassano al Milan, quanto abbia contribuito allo scudetto Cassano, beh, francamente io direi non tantissimo, direi il minimo sindacale a questo scudetto del Milan. Poi vediamo se resta. Tanto noi ci fermiamo e torniamo domani dalle 2 alle 3. Io ringrazio Luca Rinaldi in redazione, Mauro De Angeli in regia. Buon pomeriggio.